8. Ascolta e controlla. 1. Questo giornalista scrive per un famoso giornale. Questi giornalisti scrivono per un famoso giornale. 2. Il farmacista aiuta sempre i clienti. I farmacisti aiutano sempre i clienti. 3. Chi è il regista di questo film? Chi sono i registi di questi film? 4. Chi è la protagonista di questo lavoro teatrale? Chi sono i protagonisti di questi lavori teatrali? 5. Dov'è ora la pianista? Dove sono ora le pianiste? 6. La violinista è brava e bella. Le violiniste sono brave e belle. 7. Tu, caro ragazzo, devi essere ottimista. Voi, cari ragazzi, dovete essere ottimisti. 8. Tu, cara ragazza, non devi essere pessimista. Voi, care ragazze, non dovete essere pessimiste. 9. È uno specialista. Sono degli specialisti. 10. È una specialista. Sono delle specialiste.